con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. We're in the cuckoo, teaching now. I love cooking in the kitchen with the you mama. We're in the cuckoo, teaching now. I love cooking in the kitchen with the you mama. E adesso è tempo di dare il benvenuto al nostro amico. Buongiorno al dottor Arzegovesi. Buongiorno, il nostro Nicoletta. Il nostro medi cuoco, quasi cuoco. Noi siamo pronti in cucina per la ricetta del giorno. Anche oggi impareremo qualche cosa di buono, ma soprattutto qualche cosa di utile per la nostra salute. Salutare, ma anche un'occasione di fare un pensiero a un'idea diversa di come mangiare, anche da un punto di vista poi delle linee guida alimentari, quindi da un punto di vista anche scientifico, questo così, no? Il nostro percorso di agosto. La ricetta di oggi ha un ingrediente che le sta particolarmente caro. Lei ha una passione. Avevamo lanciato anche in una puntata della Bufala in Tavola una sorta di appello. Sì. Non abbandoniamo gli animali, trattiamo bene le verdure, soprattutto le zucchine. Sì. Quindi soprattutto questo... le zucchine. Perché lei ha questa passione per le zucchine? E io, dottore Arzegovesi, tanto che ha scritto: fate l'amore, non fate la guerra, fate la rivoluzione con le zucchine trifolate. Sì. Cosa ha mangiato ieri? Rendete la zucchina un alimento rivoluzionario. La zucchina è regina. Esatto, la zucchina deve fare la rivoluzione, altro che bombe o... Allora, con la zucchina si può fare la rivoluzione. Dal punto di vista nutrizionale è interessante la zucchina, è molto versatile in cucina, ma poi in sostanza ti dice, beh, la zucchina che cos'è? In fondo acqua. Un po' d'acqua, ma questo no. È su questo che dobbiamo fare la rivoluzione. Tutto nasce perché è nel ricordo di tutti, a me è un ricordo particolarmente vivo, la zucchina delle scuole piuttosto che la zucchina della mensa. Sì, sono un po' bavosina. Bavose, stracotte, spugnose, di solito con un colore che è già virato in quanto ossidate, stracotte verso il grigio marrone, non sono più belle verdi. Sì. E insomma, no, brutte, no, da vedersi, cattive da mangiare. Cattive da mangiare, pessime consistenze e sapore fondamentalmente zero, cioè sanno di acqua. E quindi dobbiamo pensare di trovare, rivitalizzare in quindi maniera lei è stato segnato da bambino. Sì, sì, il trauma infantile mi porta ad oggi ad essere così attento e così, come dire, spinto sulla riabilitazione della zucchina. Allora, prendiamo queste zucchine. Prendiamo questa la sarebbe zucchina. La loro stagione. Sì, oltretutto a proposito di acqua, potassio e comunque tutti i sali minerali utili nel momento in cui fa caldo, la zucchina è un modo per bere mangiando e quindi questo di per sé è già un ottimo motivo per usarne in quantità in questa stagione. Quindi le nostre zucchine le lasciamo a bagno per un po', teniamo conto che una zucchina, soprattutto se non di provenienza industriale e quindi spesso con un pochino di terra addosso, la buccia della zucchina tende a trattenere molto la terra. Quindi noi le dobbiamo lasciare a mollo in acqua per qualche minuto, quindi il tempo che la terra eventualmente si stacchi. O si spazzolano. Oppure una spazzolatina, perfetto, piuttosto che le sciacquiamo con le mani sotto l'acqua. Prima mossa. Tagliamo via le punte, le tagliamo in quattro per il lungo, quindi otteniamo quattro spicchi lunghi di zucchina e andiamo a togliere quella parte centrale che è ricchissima di acqua ma che è poverissima di gusto. E questo, se dobbiamo fare la rivoluzione, la parte di gusto dobbiamo esaltarla. Quindi togliamo via col coltello questa parte, ma non buttiamola, possiamo usarla per un ripieno, per un brodo, per una vellutata, per una crema, si può sempre usare la parte interna della zucchina, si conserva in frigo al chiuso, dura per giorni senza problemi. A questo punto avremo i nostri spicchi lunghi di zucchina, diciamo così, ripuliti del cuore, quindi ripuliti della parte più senza interna. Cuore. Senza cuore ma con gusto, quindi come dire, apparentemente senza cuore ma con grande forza di gusto. Quindi cosa avremo in sostanza? La parte della buccia, quindi ricchezza di clorofilla, polifenoli, la parte verde, e avremo la parte immediatamente sotto la buccia, che è ugualmente una parte comunque ricca di gusto. A questo punto la tagliamo a piccoli cubetti, quindi semplicemente se abbiamo una zucchina grande faremo per il lungo ancora dei tagli in modo di avere dei pezzi più grandi, oppure faremo dei cubetti un pochino più larghi, quindi a questo punto dei andate di coltello, insomma. Ah, sempre e comunque, evangelizziamo anche i nostri ascoltatori su usare un coltello da cucina ben affilato e un tagliere che sostenga bene il lavoro del coltello. Con questo potete fare quasi tutto in maniera soprattutto molto salutare. Cosa facciamo a questo punto? Abbiamo i nostri pezzettini di zucchina, usiamo una padella, la lionese e la padella di ferro puro. Quindi una padella. Se sono in vacanza e uso le padelle che trovo nella casa che ho affittato? Acciaio inossidabile, okay. Ghisa, va bene tutto. Meno bene se antiaderente, perché la cosa fondamentale di questa cottura è che la padella deve essere molto calda, cioè sopra i 200 gradi. Ormai ci sono degli antiaderenti sicuri e che resistono, sì, anche alle alte temperature, ma una padella un po' vecchia magari rischia di iniziare a danneggiare l'antiaderente. Sa farla scaldare così tanto, sì, senza cibo. Padella vecchia fa attaccare. Padella vecchia fa attaccare, ma padella vecchia come si gallina, può usare. Sì, gallina vecchia fa buon brodo. Si può usare. Quindi scaldo la padella. Bella temperatura, bella alta. Senza nulla. Niente, a secco. A nudo. A nudo, butto i miei cubetti di zucchina, devo sentire le zucchine che cantano, perfetto. Ho fatto la zucchina. La zucchina sfrigola e allora qui siamo già nella situazione in cui cosa succede fondamentalmente da un punto di vista sensoriale e quindi da un punto di vista nutrizionale. La componente dell'acqua, che sa di acqua e quindi non sa di niente, inizia ad evaporare. La componente della fibra, che sa di fibra, cioè di legno, si ammorbidisce e quindi questo rende più facile sentire la zucchina, il gusto della zucchina, e tutto questo a secco. Quindi io devo mettere uno strato, mi raccomando, importantissimo, uno strato non alto di zucchine, perché se lo facciamo alto quelle sotto fanno la rivoluzione, ma quelle sopra lessano perché lo, certo, strato è troppo alto. Quindi strato sottile, quando democratico, democratico e come dire pienamente, come dire, uguaglianza per tutti i punti della padella. Le facciamo girare con una spatola di silicone o con una spatola di legno, quello che abbiamo, e facciamo girare la padella finché vediamo che la zucchina, che all'inizio comincia a sudare, quindi, sì, comincia a ricoprirsi di liquido, pian piano questo liquido diventa vapore e quindi si concentra. A questo punto, secondo passaggio, mettiamo un po' di sale. Cosa fa il sale? Oltre che aggiungere un po' di salinità, quindi di gusto, estrae ancora di più quell'acqua che dicevamo sa di acqua e quindi non sa di nulla. A questo punto la zucchina tornerà ad essere in maniera molto più leggera di prima, tornerà ad essere un po' più umida, eliminerà un po' acqua, la fibra sarà comunque una fibra sempre più ammorbidita e soprattutto, attenzione, comincerà a caramellare, ma caramellare il giusto per noi, non deve diventare bruciato. Un po', ma come, certo, quando fate lo zucchero caramellato. Ricordatevi che lo zucchero caramellato, quando è appena ambrato, è buonissimo. Quando diventa scuro, sa di carbone. Quindi occhio e naso. Che già il carbone è importante, però... Beh, ma non da mangiare. Ma non da mangiare, solo da ascoltare. Quindi a questo punto... A questo punto cosa facciamo? Abbiamo la nostra zucchina delicatamente caramellata, già con il nostro pizzico di sale. Terzo e ultimo passaggio... Togliamo la zucchina dal fuoco, mettiamo un filo d'olio, che a questo punto in realtà è pochissimo come quantità e va semplicemente a ricoprire la zucchina. L'effetto però che le dà, considerata la temperatura molto alta della padella, sarà un effetto frittura, senza friggere. E quindi noi avremo una zucchina bella verde di colore, con una consistenza che è ancora croccante, per cui per nulla molle e stracotta, e con un sapore di zucchina estremamente concentrato e... Provate e ditemi se non è rivoluzionario. Rivoluzionario, così assicura il dottor Arzegovesi, provatelo anche voi, ma dottor Arzegovesi, questo è un metodo di cottura che possiamo utilizzare anche per altre verdure. Assolutamente, perché sì, da questa sua ricetta noi cosa impariamo? Che le verdure vanno consumate croccanti, non solamente, sì, dal punto di, perché questo è più un piacere del gusto, ma anche dal punto di vista nutrizionale le manteniamo tutta la ricchezza di cui di nutrienti, e soprattutto evitiamo che si ossidino, dove l'ossidarsi le rende anche molto più brutte a vedersi, perché l'ossidazione delle verdure, le verdure verdi in particolare, diventano tutte scure E l'altra cosa importante, mettiamo quel tanto di olio che renda più biodisponibile assorbire i nutrienti della verdura, ma talmente poco che non dobbiamo poi stare a preoccuparci di fare un'alimentazione troppo grassa. Naturalmente non possiamo mangiare solo un piatto di zucchine, troppo poco. Eh beh, diciamo che... Come lo abbiniamo, dottor Arzegovesi, per un abbinamento, così ci dà anche qualche indicazione per abbinare i vari piatti. Quindi noi abbiamo preparato le zucchine e lo abbiamo fatto bene. Preparate zucchine alla lionese. Una cosa che si può fare sempre e che vi consiglio in questi casi è: abbiamo già una padella e è una padella bella calda. Bravo. Facciamoci un bel pesce saltato nella stessa padella e quindi in qualche modo con un effetto grigliato. Mettiamoci un pesce, facciamoci un pesce azzurro se vogliamo un bel po' di omega 3, quindi facciamoci, non so, delle sarde saltate, o se vogliamo stare più sul leggero facciamo un merluzzino, un nasello, comunque un trancio di pesce bianco leggero. In questo caso cosa facciamo? La padella è già calda, noi avremo provveduto prima di iniziare a lavorarci le zucchine ad avere i nostri filetti di pesce preventivamente marinati, una marinatura come preferiamo noi. Nella marinatura ci vuole un po' di sapidità, cioè sale, un po' di acidità, cioè limone o aceto, e un po' di grasso, fondamentalmente olio. Un po' di olio. Li lasciamo lì, li scoliamo per bene, quindi anche in questo caso la quantità finale di grassi che avremo sarà bassissima. Nel caso però che dell'uso della lionese, comunque una padella di acciaio, il mio consiglio è: mettete anche solo con un tamponcino di carta assorbente, mettete un pochino d'olio sul fondo della padella, se no il rischio che il pesce marinato su una padella bollente tenda ad attaccarsi. Quindi a questo punto filo d'olio, colpo di calore su un lato, colpo di calore sull'altro. Ricordiamoci, chi cucina bene il pesce dice sempre: il pesce quasi si cucina da solo, cioè non dovete fare niente, dovete molto più non disturbarlo che non stracuocerlo. Quindi semplicemente il tempo che si coagulino le proteine, che diventi la carne uniformemente bianca, lo togliamo e lo serviamo insieme alle nostre zucchine. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa rovina qua? Ma che bontà! A questo punto ci facciamo, insomma, la stagione propizia, quindi il peperone, verdura regina della stagione estiva, verdura rinfrescante. Mettiamoci insieme un po' di pollo, quindi stiamo proprio su tradizione mediterranea. Classico! Pollo con i peperoni. Pollo e peperoni, tutta Italia. Fantastico, quindi peperone ricco di vitamina C. Vitamina C ricchissimo, ricco comunque della famiglia dei carotenoidi, quindi colore giallo e rosso, ricco anche di clorofille, il peperone verde, ricco di fibre solubili e insolubili, e su questo, attenzione, diremo un paio di trucchetti su come sbucciarlo, perché alcune fibre del peperone possono essere poco digeribili. Meglio cotto o crudo il peperone per prendere? Perché ci piace consumarlo nelle insalate, ci sono invece tante ricette che lo vedono protagonista, che o è scottato o cotto in padella. In termini di salute, considerate che la vitamina C è una vitamina estremamente sensibile al calore. In termini di salute, sicuramente il peperone crudo è il migliore. Però il peperone crudo, dicevamo, tende ad essere a volte difficile da digerire. Un po' pesantuccio. E su questo, primo trucchetto, sbucciamolo a freddo. Cosa vuol dire? Che noi dobbiamo prendere il nostro peperone, come sempre si fa, quindi si lava, si toglie la parte piena di semi e la parte bianca, che sono le parti più amare. A questo punto dobbiamo dividerlo in quarti in maniera che sia più facilmente sbucciabile. Come lo sbucciamo? Con il pelapatate. Trucchetto: non tiriamo il pelapatate col rischio di stracciare la buccia del peperone. Andiamo un pochettino a zigzag. Andando a zigzag, il taglio diventa un taglio molto più pulito, molto più lucido. Al di là che sia più bello da vedere, ossidiamo meno il peperone. Perché vi faccio una testa così tutte le volte sul coltello ben affilato? Perché il coltello ben affilato, tagliando con nettezza, ossida meno la verdura. La stessa cosa è il pelapatate. Se io lo uso per le verdure delicate un po' a zigzag, ossido meno la verdura perché la straccio di meno e la lascio con un'apparenza che è un'apparenza molto più lucida. Ma se io lo cuocio al forno intero, E dopo lo sbuccio? Anche, in questo caso è un semicotto, perché sì, in questo caso chiaramente la temperatura dell'interno non sarà particolarmente alta, però all'esterno sarà già una temperatura alta. In quel caso l'ideale, se vogliamo conservare la vitamina, è diamogli un colpo di calore, non una vera cottura, appena tirato fuori lo mettiamo in un sacchetto, comunque lo facciamo conservare all'interno del suo stesso vapore, e a quel punto sarà un attimo togliere la buccia, ma lì senza pela patate, si toglie con le mani tranquillamente. In questo caso è una preparazione più estiva, quindi è una sbucciatura a freddo, rimane tutto molto fresco, però a me piace anche la sbucciatura, diciamo, a semicaldo, nel momento in cui dobbiamo usare il peperone, cercando una consistenza che è una consistenza più morbida e più dolce. Nel caso invece della sbucciatura a freddo prevale la componente fresca, ma quindi la componente più acida. Quali sono le altre verdure che è bene sbucciare, anche se la loro buccia è commestibile? Penso ad esempio al pomodoro. Ci sono delle ragioni per togliere la pellicina, la buccetta del pomodoro, quando lo consumiamo a crudo? Sono sempre ragioni, dal mio punto di vista, sensoriali. Cioè, la buccia del pomodoro, in generale dobbiamo immaginare che la verdura, per difendersi, si deve proteggere dagli agenti esterni, quindi mette la sua percentuale maggiore di polifenoli all'esterno, cioè dove c'è la buccia. Questo vuol dire che da un lato è molto ricca di polifenoli e quindi ci fa molto bene alla salute. Da un punto di vista sensoriale, la ricchezza di fibra e la ricchezza di polifenoli rende la buccia un po' più dura e quindi chiaramente non buona da sentire sotto i denti, amara, perché i polifenoli sono quasi tutti amari come tipo di impatto gustativo, e per certe fibre, che sono queste fibre un po' dure delle bucce, può essere poco digeribile, e quindi il classico peperone che torna su. Mentre dal punto di vista nutrizionale, se le consumiamo con la buccia è meglio, abbiamo tutte le sostanze che sono contenute nella buccia, nulla va perso. Dipende se le digeriamo bene, se apprezziamo il sapore, o in alternativa eliminiamo, ma perdiamo eliminando la buccia qualcosa. Che può essere. Sì, ma in questo caso io consiglio sempre, noi dobbiamo prima di tutto conoscere noi stessi, quindi se noi sappiamo che determinate verdure ci risultano comunque indigeste, ma anche semplicemente sgradevoli al palato, molto meglio trattarla in modo da poterla mangiare che, come invece a volte capita, eliminarla. Lo stesso dicasi per i cetrioli. Stessa cosa, stavo per citarli come la seconda verdura che dipende dalle persone se farla sbucciata o farla invece con la sua buccia. Il cetriolo, una via un po' di mezzo, può essere il fatto di sbucciarlo tipo zebra, cioè di sbucciarlo una riga sì e un'altra no, che vuol dire limito l'impatto della fibra indigesta, ma ne lascio una quantità che, come dicevamo, nella buccia si concentra anche i nutrienti, quelli più intensi. Ovviamente attenzione, se mangiate frutta che non sapete bene come è stata coltivata, nella buccia non ci sono solo le cose buone, cioè i polifenoli e le fibre più resistenti, ma ci possono essere anche i pesticidi, e quindi in quel caso o lavatela bene o, nel dubbio, sbucciatela. Se è una verdura che non sapete che tipo di coltivazione ha avuto, meglio comunque sbucciare, perché così meglio eliminiamo il rischio di poter assumere pesticidi o altre sostanze. Accanto a questi peperoni? Ecco, il peperone dobbiamo, innanzitutto noi abbiamo sbucciato il nostro peperone, quindi abbiamo le nostre listarelle, i nostri cubetti di peperone, facciamo un lavoro che ci serve due volte, facciamo una bella marinatura. Estate vanno molto le marinature. Rinfresca molto, ecco. E aggiunge comunque anche una possibilità di conservazione migliore, perché la marinatura un tempo era un modo anche per conservare qualcosa che diversamente non c'erano i frigoriferi. Quanto tempo facciamo marinare i peperoni, o anche per dare gusto, ma al tempo stesso mettendoci al riparo da eventuali contaminazioni? Perché la marinatura è utile, ma non possiamo lasciarla fuori dal frigorifero una giornata. No, ma infatti il mio consiglio è, per il peperone, una marinatura leggera. Il peperone ha un rischio igienico-sanitario bassissimo, perché è un vegetale, quindi noi lo lasciamo a temperatura ambiente, un po' di aceto limone, un po' di olio, erbe aromatiche che ci piacciono. A me piace molto metterci il cappero tritato, il rosmarino, piuttosto che anche un po' di oliva tritata, e lo lasciamo lì a riposare. Quanto? 10-20 mezz'oretta. Sì, intanto? Mezz'oretta. Intanto con la stessa base di marinatura, quindi un po' di acidità, un po' di grasso. Ci sta bene come grasso nel caso della marinatura del pollo anche l'olio di cocco, perché l'olio di cocco ha un effetto che è molto coprente, cioè crea una pellicola molto, molto piacevole, proprio come, come pellicola esterna sul, sul nostro pezzetto di pollo. È come se lo sigillasse? Lo sigilla, ma contemporaneamente è molto resistente alle temperature e quindi riesce a dare una cottura che lo lascia morbido dentro ma comunque un pochino croccante fuori. Quindi ci possiamo mettere. A questo punto ci mettiamo le spezie che ci piacciono, anche il pollo è il principe delle spezie, pensiamo a tutta la cucina indiana che usa molto il pollo, perché tende ad essere una carne molto neutra, e quindi ci mettiamo la curcuma, il curry, l'aglio, il prezzemolo, il rosmarino, possiamo veramente sbizzarrirci. Mi raccomando, con le spezie, con le erbe aromatiche, scegliamone un paio e dosiamole bene. Il pollo comunque, se è un pollo buono, deve sapere di pollo. Se sa di rosmarino o se sa di curcuma, certo, non ha senso, non ha senso mangiarlo. Quindi lo lasciamo in questo caso marinare in frigorifero, così siamo sicuri in termini igienico-sanitari, coperto, impellicolato, e lo possiamo lasciare anche tutta la notte. Lasciamolo il tempo che noi preferiamo, più lo lasciamo a marinare più la carne sarà molto più tenera. Per cui questo dipende anche dai nostri gusti o da quanto vogliamo sentire più il sapore puro del pollo. O dal tempo che abbiamo a disposizione. O anche da aspetti assolutamente pratici. Io faccio e mangio, eh. Allora marinatura super... Beh, in questo caso proprio la più super veloce della marinatura è marinatura sottovuoto. Ah. Nel senso, io lo metto in una busta con la marinatura, tolgo l'aria e il sottovuoto è come se facesse assorbire rapidamente, e lì faccio una marinatura in 3 minuti volendo. Una ragione in più per in seguire caso il suo consiglio di prenderci una, sì, un attrezzino, una, un attrezzino per il sottovuoto. Litigherete come ho fatto io con mia moglie perché occuperete vostro spazio nella cucina, però è molto utile per poter avere poi... Anche per la marinatura. Oltre che per conservare, anche per marinare in questo quindi caso. Quindi si cuoce, si tira su dalla marinatura, padella calda. Padella calda, non caldissima, ricordiamoci che il pollo è una carne molto delicata e quindi ha bisogno di cotture ugualmente delicate. In questi casi, nel caso di filetti marinati, normalmente si usa il petto di pollo, che è la parte comunque più asciutta. Piace anche ai bambini. Piace a tutti, è facile da fare. Si trova ovunque, quindi è una carne molto semplice. Cosa ci facciamo? Metteremo la nostra proteina, in questo caso una proteina magra ma molto profumata, molto saporita, insieme alla nostra scorta di vitamine, di minerali, di antiossidanti del peperone. L'acidità del peperone marinato si sposa molto bene con quella che può essere la leggera grassezza del sughetto del pollo, e diciamo abbiamo fatto un nostro piatto che tutto sommato in estate si può anche mangiare freddo, nel senso che marinato bene, un pollo cotto in questa maniera è comunque un pollo che è molto ricco di gusto anche se mangiato freddo. Una sorta di, come potesse essere la carne del vitello tonnato, ma fatta con una grande quantità di spezie o di aromi. Appunti di oggi dalla ricetta, perché noi partiamo dalla pratica per arrivare alla teoria, che poi possiamo utilizzare in altre occasioni. Certo, con altre verdure, con altri tipi di carni. Se le verdure sono indigeste perché tornano su, come i peperoni, i cetrioli, una buona idea è eliminare, sbucciarle. Meno polifenoli, meno fibra. Se però è una verdura che non conosciamo bene, meno pesticidi. In ogni caso, un palato più rispettato in termini di consistenze non troppo legnose, e sicuramente un sapore che, tolta la componente di fibra esterna, tende ad essere un sapore più apprezzabile. Quindi questo sicuramente per i peperoni, vale lo stesso per i cetrioli, per i pomodori, certo, per quasi tutte le verdure. Abbiamo parlato dell'olio di cocco. Dal punto di vista nutrizionale, che cosa è di interessante questo olio rispetto al nostro straordinario farmalimento, l'olio extravergine d'oliva? Un'occasione per provare dei gusti diversi, ma che caratteristiche ha? Perché può essere interessante per chi? L'olio extravergine, premessa giustissima, rimane e deve rimanere il principale condimento della nostra cucina. L'olio di cocco ha due caratteristiche interessanti. Una è una caratteristica aromatica, il fatto che comunque può lasciare insieme alle spezie un aroma e un profumo interessanti per certe carni. L'altra è una caratteristica, diciamo, biochimica. Sì. L'olio di cocco è un olio, pur essendo vegetale, molto ricco di grassi saturi. Infatti, se voi lo lasciate in autunno, inverno, anche a temperatura ambiente, diventa diventa come una sorta di grasso, cioè solidifica a temperatura ambiente. Questo lo rende estremamente resistente alle alte temperature. Quindi la classica cottura dove io prendo il mio filetto di pollo marinato e lo scotto a temperatura altissima, pensiamo a una griglia quasi rovente, il vantaggio che io lo faccio se faccio una marinatura in olio di cocco è che non fa fumo. Anche il migliore extravergine, quando superiamo i 180-200 gradi, comincia a fumare. L'olio di cocco è molto più resistente. Per oggi è tutto, un saluto da Nicoletta.